Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, eccomi qui come ogni mattina, perché se è vero che c'è un tempo per ogni cosa, questo è il tempo giusto per occuparci della nostra salute, del nostro benessere. E oggi lo facciamo con un grande amico della nostra trasmissione, il professor Roberto Manfredini, che è già in linea con noi, direttore della Clinica Medico Universitaria di Ferrara. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. Secondo me cercate di invitare, e sono poche, le superalodole, bisogna mantenersi buoni chi è sveglio quest'ora. È vero. È vero, professore. E tra l'altro stavo pensando che non è un caso che Obiettivo Salute Risveglio sia al mattino, subito dopo il GR che apre il palinsesto, perché il mattino ha l'oro in bocca, è un momento prezioso della giornata, dirlo non è solo la saggezza popolare, ma fior fiori di studi che professor Manfredini lei ha raccolto nel suo libro. Voglio ricordare il titolo, Un tempo per ogni cosa, anche l'editore che è PM, un libro in cui lei approfondisce l'impatto dei ritmi circadiani sulla nostra salute. Insomma, professore, se facciamo le cose giuste nei tempi giusti, ci guadagniamo in salute, energia, voglia di fare. Insomma, se ci facciamo guidare dal nostro orologio interno, tutto fila liscio. Allora, diamo un occhio a questo orologino speciale che dice: è giusta l'ora di Obiettivo Salute Risveglio? Certo, come dicevamo poco fa, è sicuramente l'ora della lodola. È un momento prezioso della giornata, è un momento in cui abbiamo un sacco di attività favorevoli, concentrazione, insomma tutta una serie di attenzione per chi è giustamente un cronotipo mattutino. È un momento assolutamente molto buono. Il gufo forse non sarà d'accordo, perché magari avrà bisogno di un po' di caffè in più prima di cominciare a connettere. Professor Manfredini, ma è vero che la mattina la pressione è più alta? È vero, è proprio così. La pressione arteriosa, come tutte le funzioni del nostro organismo, risponde ad un ritmo circadiano complesso, perché sono tanti i regolatori. Il picco principale è un picco pomeridiano, quando nel nostro organismo prevale il tono simpatico, quindi quello dell'adrenalina. Però la mattina, per una serie di motivi, il risveglio, lo stress del risveglio, aumenta la frequenza cardiaca, si comincia a pensare devo fare questo, devo fare quest'altro, magari qualcheduno prende anche la prima sigaretta e si stringe un pochino i vasi, che già al mattino sono un pochino più stretti, abbiamo un picco di pressione alta proprio al mattino appena svegliati. Professore, lei ci ha parlato dell'azione dello stress che aumenta l'adrenalina e quindi fa alzare la pressione, ma anche il sonno è importante. È vero che dormire poco e male può contribuire a far alzare i valori della pressione? Assolutamente sì. Il sonno è un alleato importantissimo per il nostro organismo, per la salute del nostro organismo, quando lo rispettiamo e quando gli permettiamo di fare tutte le cose che il nostro organismo deve fare durante il sonno, perché non è che non lavora, fa altri tipi di attività il cervello. Se lo maltrattiamo, andiamo a letto tardi, teniamo accesa la luce in stanza, magari la luce blu, facciamo solo pisolini e non una bella dormita, magari mangiamo anche qualcosa, la reazione dell'organismo è negativa, nel senso che si alzano i battiti cardiaci, il cortisolo, che è l'ormone dello stress, stringe un poco i vasi e quindi fa aumentare la pressione, aumenta la glicemia. Quindi ecco, vediamo che maltrattare il sonno, si alza la pressione, è più facile avere la sindrome metabolica. Professore, però di notte la pressione è più bassa. È verissimo, di notte l'organismo, specie l'apparato cardiovascolare, è considerato a riposo, quindi pressione arteriosa e battiti cardiaci sono bassi, perché predomina invece il nervo vago, che è chiamato cardiofrenatore, mentre prima abbiamo parlato dell'adrenalina come cardioacceleratore. Questo vale specialmente quando siamo nella fase di sonno, quello profondo, lo stadio 4, quello che è come fosse un coma, quello che alla mattina, se ci dicono hai sentito questa notte che c'era una sirena, i pompieri, il bancomat esplodeva, no, non ho sentito niente. Perché come fosse un coma. Invece durante la fase del sogno, in fase REM, pressione e frequenza cardiaca vanno su, ma sono cambi fisiologici, quindi tutta la notte una persona normale, sana, ha valori bassi, salvo quando sogna. Eccolo lì. Ma professor Manfredini, ritorniamo alla mattina, all'oro in bocca, e di solito la mattina è il momento per prendere la pastiglietta per la pressione. Può capitare di dimenticarsela. Che si fa, professore? Come recuperare? Allora, intanto È vero che lei sorride perché sa che è abbastanza frequente. Sì, no, sorrido perché comunque un po' c'è l'abitudine, invale l'abitudine di prendere una fila di pastiglie al mattino, cioè di prendere, non dico tutte le terapie della giornata, ma ho quasi in fila la mattina che si vuota il cassetto di farmacia di casa. E quindi non è sempre perché corretto. Perché così ci togliamo il problema. Sì, però non è proprio corretto perché non è che tutti i farmaci devono essere tutti presi alla mattina. Ma la domanda era, se ci siamo dimenticati la pastiglia della pressione, nessuna paura, perché non è che se uno dimentica una volta la pastiglia si muore. E non prendiamone due ravvicinate perché se una fa bene, due fanno bene il doppio. Si prende, quando ci ricordiamo la prendiamo, e il giorno dopo la si riprende alla stessa ora, continuando a prendere all'ora che il medico ha consigliato. Quindi come se nulla fosse. Come se nulla fosse, perché può succedere una volta che scappi. Non deve essere la regola, perché un paziente iperteso che non prende la terapia ha un rischio. Paradossalmente, se la prende a orari completamente diversi ogni volta, ha un rischio ancora maggiore che fare senza. Per cui una volta non fa nulla, ma errare è umano, ma perseverare è diabolico. Professore, lei ci diceva poco fa che non è sempre consigliabile prendere tutte le pastigliette al mattino. Mi faccia capire bene. Sì, stiamo parlando tra l'altro di proprio nell'argomento ipertensione. Un po' per tutti i farmaci vale la regola che esiste un tempo più appropriato di altri, per molti farmaci. Ma stiamo parlando di ipertensione, e quindi abbiamo detto prima che di notte la pressione è più bassa che di giorno. Questo è vero, come dicevamo, nelle persone sane e anche in una certa quota dei soggetti che hanno l'ipertensione. Una quota per cui almeno di notte i loro valori comunque si abbassano un po' e danno un po' di tregua al cuore. Ricordiamo che il cuore pompa 24 ore al giorno ogni minuto, e pompare contro 120 mm o 150 è un quarto di lavoro in più, basta fare i calcoli con la macchinetta. Ma invece ci sono purtroppo una serie di ipertesi che durante la notte non calano proprio, quindi ce l'hanno molto alta anche di notte. Ecco che in questo caso tutte le pastiglie di mattino non vanno bene e bisognerebbe portarne almeno una alla sera in queste persone per proteggergli anche quella finestra non coperta della famosa pressione notturna. Sì, ho capito, ma come si fa a sapere se siamo persone con il calo notturno della pressione oppure no? È vero. A parte, adesso esiste la possibilità diagnostica con un misuratore apposta, ma che non ha senso farlo a tutti, la procedura del monitoraggio delle 24 ore serve in alcuni casi, ma il medico lo sa che tutta una serie di pazienti che abbiano determinati tipi di patologie, facciamo qualche esempio, i diabetici, i soggetti con le malattie renali, con la malattia renale cronica, i soggetti con la broncomiopatia cronica respiratoria, e i soggetti per esempio russatori, tutte queste categorie di persone, non sono pochi nella vita quotidiana, con una certezza quasi assoluta hanno solo non dipper, quindi hanno valori pressori alti anche di notte. Siccome sono persone che non prendono di solito un solo farmaco per la pressione, ma ne prendono due, delle volte anche tre, allora è il caso di portargliene uno anche alla sera, altrimenti quando inizia la trasmissione avrebbero dei valori altissimi e potrebbero dare la colpa a lei. Ah no, questo no. Professore, lei se la ride, prof, ma è un attimo, sì. Uno lo dice così, dice, vedi quella Nicoletta lì mi ha fatto alzare la pressione. Esatto. Senta, professor Manfredini, tra poco inizia l'estate, le giornate però sono già calde e sappiamo per esperienza che quando la colonnina di mercurio sale, la pressione scende. Chi in terapia se ne avvantaggerà? È merito del caldo, non della Nico, e quindi aggiusterà con il proprio curante la terapia, ma per chi ha già la pressione bassa, pensiamo certo, anche intanto ha detto a questa benissimo. Categoria di persone, perché chi ha la pressione bassa si sente stanco, si lamenta un po' e si sente rispondere, ma va là che la pressione bassa non è niente, è la malattia di quelli che non muoiono mai. Prof. Dunque, faccio un passo indietro e dico, ha fatto benissimo a dire si consulti col proprio medico anche per calare la terapia d'estate, perché con la convinzione che d'estate va giù, ed è vero, un po' di vasodilatazione, però bisogna averla controllata ed essere sicuri che il medico dica che si può ridurre, altrimenti facciamo degli errori. È vero che vasodilatando d'estate i valori sono più bassi, specie magari in persone che normalmente non ce l'hanno altissimo, le ragazze, le signore, le donne, ed è anche vero la sioma che più bassa è la pressione, più il cuore risparmia e quindi l'apparato cardiovascolare vive di più. Naturalmente deve essere bassa, sopportata, cioè se deve essere bassa e sto bene, se mi deve girare la testa vado per terra, non va bene. Quindi idratazione, mi raccomando, quindi idratazione anche con sali minerali, non solo acqua, magari anche integratori, e un pizzico di sale, mangiare anche un pochino salato. Vecchio trucco, per chi è iperteso lo deve evitare, chi è ipoteso trattiene un pochino di liquidi, mangiare un po' salato, e quindi ci può stare, bere e un pizzico di sale. Grazie professor Manfredini per essere stato con noi. Torni, perché lei è anche all'Odola, quindi questo è il suo tempo. Quindi mi trovate sempre. Vede, un tempo per ogni cosa e anche per ogni ospite. Professor Manfredini, buona giornata. Grazie dell'invito e grazie e buona giornata a tutti voi. C'è in regia, e voglio ringraziarlo, Carmelo Lauricella, in assistenza Alessandro Marco Tulli e in redazione Laura Vanossi. Come sempre vi do appuntamento dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Buona giornata da Nicoletta.